e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Buongiorno e benvenuti a voi. Oggi sono di nuovo qui da sola, però Deborah torna lunedì. Ma in regia, per fortuna, a tenermi compagnia c'è anche la Rima, c'è Carmelo, che ormai, grazie al gatto del suo vicino, è diventato un po' una star degli ascoltatori di Cuore Denari. Non posso dirvi quante, eccolo qua, quante mail ci sono arrivate. Molti di voi infatti ci hanno scritto per chiedere notizie soprattutto del gatto, ma devo dire anche qualcuna di Carmelo. Carmelo, ti ha lasciato dormire stanotte? Non sentiamo, mi fai un sì, sì. Allora, gli ascoltatori chiedono una foto del gatto miagolino che Carmelo stamattina me l'ha fatta vedere, l'ha scattato, lo posteremo, ma anche voi mandateci le foto dei vostri gatti raccontandoci se anche fanno qualche cosa di particolare o, perché no, del gatto del vostro vicino. Ed ora partiamo con una notizia di denari che già ieri vi avevamo anticipato. Andiamo. I 550.000 italiani che compiono 18 anni tutti gli anni riceveranno questa card, 500 euro annui per consumi di natura culturale. Potranno cioè investire in teatro, museo, concerto un piccolo bonus che diventa simbolicamente il benvenuto nella comunità dei maggiorenni. Infatti era ieri la data prevista per l'avvio di questa iniziativa, un bonus 18enni, 500 euro da spendere in cultura, valido per l'anno in cui si entra nella maggiore età. Tutto avviene naturalmente in via telematica tramite un apposito sito online da ieri sera. Ieri in trasmissione vi ho chiesto di raccontarci se i vostri primi tentativi magari li avete fatti a partire da ieri sera, quindi raccontateci. Che cosa vi sembra? Oggi ne parliamo con Daniele Grassucci, cofondatore e responsabile della comunicazione di scuola con la K.net. Buongiorno e ciao Daniele. Buongiorno Nicoletta. Allora, abbiamo avuto poco tempo, poi insomma entreremo proprio nel sito, ma Daniele, intanto riepiloghiamo l'iniziativa. Beh, innanzitutto un'iniziativa sulla quale c'è una copertura economica che è stata approvata nella legge di stabilità dello scorso anno, quindi ci sono 290 milioni sono destinati appunto ai diciottenni per spese o attività, cioè per spese legate ad attività o beni culturali, sì. Quindi cinema, teatro, aree verdi, aree archeologiche, anche libri. Quindi poi qua bisognerà effettivamente capire quale sarà il paniere di prodotti, beni e servizi che verrà effettivamente accettato. Quindi non saranno dei soldi che fisicamente saranno disponibili nelle tasche dei ragazzi per la qualunque, non sarà tipo una social card in cui insomma c'era una carta fisica e si andava poi a fare la spesa. Sarà proprio una sorta di borsellino elettronico che appunto sarà utilizzabile mediante la piattaforma che è stata predisposta, che è raggiungibile al sito 18app.it. Esiste sia la variante numerica di 18 sia la variante a lettere, proprio per non sbagliarsi, anche se il nome potrebbe trarre in inganno perché si parla di app, in realtà non c'è nessuna app, quindi nessuno insomma si affolli a ricercare negli store, perché in realtà è un'app, cioè è un sito che è ottimizzato per il mobile, per cui non c'è necessità anche dell'apposita app. Appunto c'è tempo, nel senso che tutti i ragazzi che hanno fatto 18 anni nel corso di quest'anno del 2016, quindi nati nel 98, potranno spendere questo bonus fino al 31 dicembre 2017. Senti Daniele, al momento il sito che è stato pubblicato è un po' scarno, direi, no? Perché gli esercenti devono caricare le proprie offerte, è un po' come un mercato all'alba quando i banchi non sono ancora stati allestiti. Ecco, ti piace questa immagine? Beh sì, in effetti corrisponde a verità. Ecco, fino a qualche giorno fa esisteva solo l'indicazione del nome del dominio, non c'era nemmeno una schermata della serie lavori in corso oppure stiamo per arrivare, quindi sembrava effettivamente che la data promessa sarebbe stato molto difficile poi mantenerla. Invece comunque il sito è online, però appunto bisognerà popolarlo di utenti. Da una parte gli esercenti, cioè coloro, esercenti fisici oppure anche online, che potranno caricare le offerte, e immagino che dietro ci sia anche un vaglio sul per capire se l'offerta è sia di natura culturale o meno, insomma, per evitare anche delle storture della serie ti offro un percorso enogastronomico che in realtà è una cena tra amici e magari lo facciamo passare per spesa culturale, e poi deve essere popolato chiaramente dagli utenti, ecco, dai diciottenni. Andiamo ai ragazzi, innanzi che cosa possono fare a partire da oggi e chi può farlo? Allora, innanzitutto può farlo chi è maggiorenne, cioè quindi chi ha compiuto gli anni, quindi immagino la maggior parte, visto che siamo comunque a settembre, quindi almeno i 9-12esimi statisticamente dovrebbero aver compiuto i 18 anni, tutti gli altri dovranno aspettare qualche mese, ma come detto non è un problema perché poi ci sarà un anno per spendere questo denaro, quindi il consiglio che possiamo dare è quello di registrarsi al servizio pubblico dell'identità digitale, il cosiddetto SPID, che permette in qualche modo di creare un'interfaccia tra il cittadino e la pubblica amministrazione e permette di accedere a diversi servizi, a cui uno ad esempio il 730 precompilato, che magari per un diciottenne non è poi ecco questa in cima alla lista di priorità, però ecco se non si è registrati a SPID non si può nemmeno accedere al portale 18app e quindi poi accedere al relativo bonus. Mi scrive un ascoltatore al 349-238-6666, ma quindi chi compie gli anni più tardi è svantaggiato? No, non è svantaggiato, Daniele. Beh, nel senso avrà quelli che compieranno gli anni da settembre a dicembre avranno 3 mesi in meno per spenderlo, però abbiamo detto che siamo in una fase di beta, cioè anche un ragazzo che ha già compiuto 18 anni si registra oggi a SPID, domani si registra al portale, molto probabilmente non potrà utilizzare questi soldi perché ancora non ci saranno delle offerte caricate. Siamo in una fase di rodaggio perché è una novità assoluta, per cui ecco ci è voluto anche del tempo proprio per mettere insieme la piattaforma informatica, per capire chi se ne dovesse occupare, perché ad esempio se pensiamo ai diciottenni, gran parte di questi non tutti sono scolarizzati, quindi hanno in possesso ad esempio la cosiddetta carta dello studente, io studio, che è anche una carta di pagamento, quindi magari si poteva anche ipotizzare per dire di utilizzare quello strumento piuttosto che questo strumento che è totalmente digitale di borsellino elettronico, quindi molto probabilmente c'è stato anche da capire chi avrebbe dovuto sviluppare questo sistema, come gestirlo e poi fisicamente svilupparlo, quindi ecco direi niente panico, penso che questi 3 mesi saranno una fase di test, di rodaggio per poi andare a regime. Diamo tempo quindi, Daniele, ma quando si è iniziato a parlare di questa iniziativa voi di scuola.net avete anche chiesto ad alcuni ragazzi un'opinione, cosa vi hanno risposto? Beh, in realtà è sorprendente perché io avrei pensato sinceramente che nel momento in cui io faccio 18 anni e mi regalano 500 euro da spendere sì in consumi culturali, però insomma sono dei soldi in più, insomma, avrei immaginato una diciamo un'accettazione a percentuali bulgare. In realtà un terzo degli intervistati non è stato d'accordo, e la maggior parte di questi perché ritenevano che questo fosse una sorta di regalo elettorale, nel senso fai 18 anni, il governo ti dà questi soldi e quindi magari poi dopo quando andrai alle urne potresti essere riconoscente. In effetti se questa norma non dovesse diventare, come ha promesso Renzi, un qualcosa di stabile, perché ad oggi ricordiamo è prevista la copertura solamente per quelli che hanno fatto 18 anni nel 2016, quindi per i nati nel 98, non si sa se nel 2017 avverrà la stessa cosa, il Premier lo ha annunciato ma le carte ci dicono che ancora questo non è certezza, perché si deve ancora approvare la nuova legge di stabilità, questa è una misura appunto che è stata temporanea, non strutturale, quindi questo è da vedere. È chiaro che se fosse una tantum magari uno potrebbe pensare ad una cosa di questo tipo, oppure potrebbe pensare semplicemente ad una serialità, siamo abituati insomma a questo governo che in qualche modo realizza degli interventi che sono spot, quindi la defiscalizzazione del lavoro che è stata solo per un anno e valida poi per un triennio, negli anni successivi non è stata strutturale, non è stata confermata, quindi magari potrebbe rientrare anche in quel tipo di misura. Comunque fatto sta che alcuni dei ragazzi magari l'avrebbero spesa in maniera diversa, magari soprattutto nelle scuole dove ancora si chiede il contributo alle famiglie, che è una cosa di cui noi spesso qui parliamo, quindi magari dice piuttosto che dare 500 euro ai 18 anni facciamo abolire il contributo scolastico che costa ogni famiglia 100-150 euro l'anno. Effettivamente non avrebbero tutti i torti, però io sono dell'idea che aspettiamo e vediamo. Aspettiamo, cioè, diamo prima, tempo. Prima di giudicare vediamo se come andranno le cose. Daniele Grassucci, sei molto saggio e torneremo presto con te a parlarne. Insomma, noi ti aspettiamo qua insieme a Deborah. Grazie Daniele Grassucci. Noi andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade e poi ritorniamo subito dopo insieme anche con le foto dei vostri gatti che stanno arrivando anche via WhatsApp. Potete mandarli naturalmente sulle pagine di Cuore Denari, mandarci una mail. Chiederemo anche le foto dei gatti di Giannino. Ne dovrebbe avere, ne ha due, però vi metto anche la foto della mia immona. Cuore e denari. E dopo i diciottenni adesso ci occupiamo di un'altra categoria di cui parliamo spesso a cuore denari, i fumatori. Ne ha parlato ieri anche il Presidente del Consiglio a Uno Mattina. No all'aumento né di tasse, né di accise, né di interventi nemmeno sul fumo, nemmeno sulle sigarette. Io non fumo, credo che fumare faccia male, però non è possibile che si prenda quella parte di cittadini che fuma e che si sprema, cioè o dici che non si può più fumare in Italia o non è che li utilizzi come bancomat perché loro sono perché fumano. Allora, i fumatori non si spremono e il prezzo delle sigarette non si tocca. Voi che dite? 800 24 00 24, siete d'accordo oppure siete favorevoli a una tassa di scopo su ogni sigaretta fumata, oppure nel caso, e mi rivolgo ai fumatori, vi sentireste davvero presi di mira, tartassati? In linea con noi è tornato a trovarci il dottor Roberto Boffi, responsabile della pneumologia dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Buongiorno. Buongiorno a voi. L'affermazione del Premier sembra, dottor Boffi, non prendere in considerazione, ad esempio, la proposta da tempo sostenuta dall'AIOM di tassare di un centesimo ogni sigaretta per contribuire al finanziamento dei farmaci innovativi contro il cancro. Io oggi non mi soffermerei sulla destinazione di quei 700.000 euro, Repubblica ha fatto i conti ieri proprio sul giornale, che potrebbero derivare da questa operazione. Oggi vorrei parlare proprio naturalmente un po' di salute, quindi mi piacerebbe capire, sulla base delle esperienze negli altri paesi e sui dati anche a disposizione, se e in che termini l'aumento della tassazione sulle sigarette potrebbe funzionare come misura preventiva per spingere a smettere di fumare. L'OMS in questo caso non ha dubbi perché dice che le tasse sono la misura più efficace e meno costosa per ridurre il numero dei fumatori, in particolare tra i più giovani e anche le classi sociali più disagiate. Dottor Boffi, lei che ne pensa? Beh, dico che è un peccato questa posizione così intransigente da parte dei nostri governanti, perché siccome lei sa bene che lavoro faccio, quindi non solo credo che fumare faccia male, ma ne sono, ahimè, sicuro, e siccome ci sono studi in letteratura scientifica degli ultimi anni che hanno dimostrato quanto sia significativo, possa essere utile una forte tassazione delle sigarette sui fumatori e quindi anche, ahimè, sulla mortalità delle malattie fumocorrelate, e penso che sia una posizione che chiaramente non... Lei dice, un po', ecco, sì, perché... lei dice forte tassazione, quindi non i 20 centesimi che si erano previsti. C'è un studio pubblicato in New England dei colleghi canadesi che aveva fatto molto scalpore nel 2014, poi c'è stato un altro studio sempre dell'Università di Toronto del 2015 su Lancet, dove si parla di una riduzione con una... triplicando le imposte sul tabacco, una riduzione di 70.000 morti su 200.000 morti all'anno in Canada e negli Stati Uniti, quindi non uno scherzo. Però anche in Italia l'Istituto Superiore di Sanità, lo cito spesso, già nel 2007 aveva pubblicato una ricerca in cui affermava che il 79%, quindi quasi l'80% degli intervistati, era assolutamente d'accordo sull'utilizzo di un aumento significativo, che direi non potrebbe essere, secondo me, meno di un euro a pacchetto del prezzo delle sigarette, e che la metà degli intervistati dichiarava che avrebbe addirittura smesso di fumare se ciò fosse successo. Comunque, dottor Boffi, il prezzo delle sigarette non aumenta, ma una cosa è certa: smettere costa. Facciamo anche due conti, dottor Boffi? Sì. Beh sì, io penso, quando noi parliamo all'Istituto dei Tumori, è tanti anni che abbiamo perorato questa causa di istituire delle tasse di scopo, non pensiamo solo alle terapie per i malati di tumori del polmone, ma anche per curare i fumatori, quindi cominciando dalla prevenzione, e la prevenzione si gioverebbe, come succede in paesi come l'Inghilterra, di una rimborsabilità totale o almeno parziale dei farmaci antifumo. È vero che molti fumatori vedono questo come un alibi e questo non va bene, però siccome un trattamento di alcuni mesi per smettere di fumare di provata efficacia, e se vuole poi brevemente parliamo dei farmaci che ci sono a disposizione, vecchi e nuovi, va dalle 200-300 euro, insomma riuscire a dare questo ai fumatori, almeno cominciando da quelli già malati di bronchite cronica, di malattie cardiache, peggio ancora di tumori, avrebbe sicuramente un forte impatto. Infatti io dico sempre che in Inghilterra, guarda caso, gli ex fumatori sono il doppio dei fumatori correnti, esattamente il contrario di quanto in Italia. E quindi, siccome non è che gli italiani sono meno bravi degli inglesi a smettere di fumare, evidentemente non sono ancora sufficientemente aiutati dal sistema sanitario nazionale. Dottor Boffi ha accennato ai farmaci, perché la terapia nicotinica sostitutiva e altri tipi di farmaci come il bupropione, che fa parte tra l'altro degli antidepressivi, e la vareniclina, si è aggiunta ma dopo anni di frequentazioni col dottor Boffi, lei ha qualche gatto, dottor Boffi? No, però ho cito spesso degli studi sul problema degli animali e fumo passivo, per cui Al gatto fa male anche il fumo passivo, anche al gatto, cane. I cani, certo, gli animali domestici. Molte persone, magari anziane, che vivono da sole, che vengono da noi a centro di fumo, smettono soprattutto per i loro animali. Ecco, smettono di fumare. Perché noi siamo invasi dalle foto dei gatti, abbiamo Pocio, ad esempio, poi torniamo ai farmaci, che apre addirittura i rubinetti. Quindi, non so, magari lei prenda qualche gatto, magari l'aiuta anche a convincere i fumatori a smettere. Va bene. Comunque abbiamo anche un'altra molecola, si può dire così, è la citisina, che viene utilizzata tra l'altro da più di 40 anni nei paesi dell'est come farmaco proprio per la disassuefazione dal fumo, e tra l'altro costa anche meno dei farmaci tradizionali. Qua siamo a cuore denari. Costa 6-7 volte meno, quindi non poco. Un trattamento di 40 giorni, quindi intensivo, però di breve durata rispetto a vareniclina e bupropione, che vanno assunti per più tempo, la vareniclina almeno per 3 mesi. Però la sua caratteristica, diciamo, se le interessa a chi la stiamo dando di più, vareniclina, certo, è che è richiesta la costanza nell'assunzione, perché ha uno schema a salire e poi a scalare nel dosaggio, nella quantità di capsule giornaliere da assumere, e si arriva nella fase clou, diciamo, dopo 2 settimane, quando bisogna smettere di fumare, a 7 capsule al giorno, quindi una ogni 2 ore e mezza, ecco, per cui bisogna mettere il timer ed è importante ricordarsi di assumerla non quando si ha voglia di fumare, ma un po' diciamo, a scopo preventivo e con regolarità. Questo è il suo limite, però se ben assunta è un'ottima medicina, simile alla vareniclina, e galenico, quindi devi trovare una farmacia che te la prepari, però è sicuramente ottimo e ha questa capacità, così come vareniclina, di farti un po' nauseare la sigaretta. Dottor Boffi, tra l'altro, prima di salutarla volevo ricordarle che Hillary Clinton deve averla ascoltata, si è preso un po' di riposo. Lei aveva detto 10, lei ha anticipato. Nel frattempo adesso noi vogliamo anche occuparci del suo avversario Donald Trump, che non ha perso tempo, adesso ha presentato la sua cartella clinica al dottor Oz, e noi ne parleremo proprio lunedì della cartella clinica di Donald, chiamiamolo così. Dottor Boffi, grazie, noi andiamo a sentire il nostro GR e torniamo, a presto. Il segnale orario vi è offerto da... Il 56esimo Salone Nautico vi aspetta a Genova dal 20 al 25 settembre. Cuore e denari. Allora, vi sentite carichi, pronti? Perché questa, secondo diversi siti e blog, è una delle 10 migliori canzoni per fare sport. Voi siete d'accordo? Perché immagino che anche voi abbiate, se praticate attività sportiva, una personale playlist. Ci piacerebbe condividerla con voi, noi comunque siamo qua. all'800 24 00 24, anche con le foto dei vostri gatti che ci state mandando. Tutto è partito dal gatto di Carmelo, è diventato un tormentone, un gatto che miagola, che disturba un po' le sue notti, ma a cui Carmelo è naturalmente molto affezionato, e allora vi abbiamo chiesto di condividere con noi le vostre storie insieme ai vostri gatti. Ne stanno arrivando decine, ci sono gatti un po' di tutti i colori, gatti rossi, gatti grigi. Con il gatto è di per sé un animale abbastanza pigro, chiedo subito conferma, anche se non sono degli esperti, ai miei due cavalieri che ho in studio, il dottor Franco Confalonieri, buongiorno. Buongiorno, ben ritrovati tutti, e sono un esperto perché ho un gatto in casa e lo amo molto. E il professor Ernesto Di Pietro, osteopata e professore di biomeccanica della colonna vertebrale a Lugano, che è tornato a trovarci, buongiorno anche a lei. Ma buongiorno a voi. Allora, il cane ti aiuta a fare un po' di attività fisica, no? Perché devi portarlo fuori, vai al parco. Il gatto, devo dire che no, magari è più per coccoloni da divano. Ti insegna come si dovrebbe vivere. Individualista, tranquillo, si riposa, fa il minimo indispensabile e quando lo ritiene necessario ti coccolo, si fa coccolare un po'. Ha capito quasi tutto della vita il gatto, ve lo dico io. Io ho tantissime gatti, foto di gatti su divani, cuscini. L'obiettivo della puntata di oggi è farci alzare dal divano, d'altronde tutti un po' stiamo accarezzando l'idea. Settembre è il mese della ripresa, è il mese anche ci iniziamo a pensare se quest'anno è la volta buona per andare a correre con l'amico che ci sta tormentando da anni, o iscriverci in palestra, o seguire il consiglio del nostro medico che ci invita a farlo, perché qua vogliamo subito, no, cercare un po' di capire, di dividere un po' il pubblico di Cuore Denari tra coloro che fanno attività sportiva per evitare, quindi per prevenire dolori, tensioni muscolari e per restare in forma, oppure tra coloro che proprio facendo attività sportiva e magari iscrivendosi in palestra, andando a correre o perché no frequentando la piscina, hanno iniziato a sentire dei dolorini sempre più intensi, tanto che molti hanno dovuto, come si dice, attaccare le scarpette al chiodo. Allora, contestualizziamo queste due situazioni e raccontateci come ciascuno dal proprio punto di vista professionale, dal proprio osservatorio professionale, può darci una mano e a partire da che indicazioni. Dottor Confalonieri, poi passo al professor Di Pietro. Sì, diciamo che ha introdotto molto bene il tema di oggi, cioè l'attività fisica e il dolore. Io vorrei proprio capire tra i nostri ascoltatori quanti, e sono sempre di più, hanno cominciato ad avvicinarsi alle palestre, alle piscine, all'esercizio fisico, perché avevano quel doloretto legato, poi lo vedremo, a posture sbagliate, all'invecchiamento, al loro DNA, a qualcosa che hanno fatto di scorretto, e gli hanno detto fai questo esercizio e ti passerà. Cioè coloro che fanno sport per superare il loro dolore. Quanti siete? Qual è la vostra storia? Qual è la vostra esperienza? E viceversa, quelli che io ritengo purtroppo siano ancora in maggioranza, pieni di entusiasmo, hanno cominciato a fare sport perché gli hanno detto lo sport fa bene, hanno iniziato probabilmente male, sono comparsi i primi dolori, quindi o si sono arrestati o non sanno bene come fare. E cercheremo di dare una mano sia ai primi per scegliere lo sport giusto, sia ai secondi per capire il significato del loro dolore. Parleremo anche di bambini, perché stiamo cercando, no, di capire i desideri, di intercettare i desideri di nostro figlio che vuole magari fare, provare ad andare a frequentare il corso di pallacanestro con l'amico, oppure lo iscriviamo in piscina o cerchiamo un pochino di assecondare un po' i suoi desideri, ma anche di osservarlo per capire quale tipo di sport può aiutarlo a crescere bene. E quindi se siete lì che state decidendo, chiamateci, perché ci faremo dare una mano naturalmente dai nostri esperti, e cercheremo di capire anche se possiamo evitare di farci così, di far dimagrire troppo anche il nostro portafoglio. Professor Di Pietro, il dottor Confalonieri ha delineato due gruppi sì, di persone. Lei chi intercetta di più? Lo sportivo, il lamento dello sportivo? Tutti e due. Molte volte si presenta la persona, come diceva il dottor Confalonieri prima benissimo, che vuole avvicinarsi allo sport come un'attività antalgica, come se fosse un farmaco per far passare i dolori. Attenzione, in questi casi può essere utile, ma lo sport, meglio preferisco, l'attività fisica. È una cosa seria, cioè noi andiamo a stressare il nostro corpo che non sempre è abituato e pronto per fare questo. E intendo, se noi vogliamo fare attività fisica perché abbiamo mal di schiena, prima cerchiamo di capire perché abbiamo mal di schiena, perché se abbiamo queste algie, questi dolori, perché la nostra postura, per esempio, non è in questo momento ottimale, perché abbiamo delle torsioni, abbiamo dei problemi cervicali, prima dobbiamo risolvere quelli. Dopo possiamo cominciare un'attività fisica senza grossi problemi e mirandola su quello che noi vogliamo fare, tenendo conto che l'attività fisica deve essere anche e soprattutto un momento ludico, non deve essere un ulteriore stress per togliere lo stress. Dottor Confalonieri, lei immagino sia d'accordo? Assolutamente. Quindi iniziamo a invitare i nostri ascoltatori a chiamarci all'800 24 00 24 per raccontarci se, dottor Confalonieri, facciamo una convocazione. Dunque, per raccontarci se hanno iniziato o intendono iniziare lo sport o l'hanno fatto negli anni passati, sono comparsi dolori, che tipo di dolori sono, se si sono fermati e li aiutiamo a interpretarli, a superarli e a continuare. Oppure, se hanno qualche dolore o qualche problema per cui gli è stata consigliata e da questo punto di vista noi gli possiamo dire ok, la scelta migliore è questa. Poi, eventualmente, rispetto a quale sport scegliere o a che intensità farle, avrei anche due formulette, quelle che voi amate molto, da darvi, che vi possono orientare nella scelta dello sport e nell'intensità a cui farlo. Se vuoi dopo ve le do. Sì, vuole darle adesso o le anticipiamo? Dai, sono pronto, sì. Così mettiamo subito qualcosa di concreto a disposizione dei nostri ascoltatori. Con gradualità però, eh? Esatto. Allora, innanzitutto, è chiaro che una delle grosse problematiche che può comportare fare esercizio fisico è farlo in sovrappeso. Perché essere in sovrappeso significa fare l'attività con uno zaino corrispondente ai chili che abbiamo di troppo che impegna le nostre articolazioni. Quindi inviterei tutti i nostri ascoltatori a fare subito un calcolino molto semplice, quello dell'indice di massa corporea. Ai ai ai, qua proprio andiamo a scuola. Semplicissimo, sì. Semplicissimo. Qua ci sono i compiti. Prendete la vostra altezza e la moltiplicate, diciamo la elevate al quadrato per essere scientifici. Sono ancora più semplici, siete alti 1,80 m, fate 1,8 per 1,8. Dopodiché prendete il vostro peso, tipo 90 kg, sto facendo un caso assolutamente personale, e lo dividete per quanto avete ottenuto. Sì. Vi verrà fuori un risultato. Allarme. Se, parlo di un adulto ovviamente, non di un bambino in questo caso, il risultato è superiore al 25%, siete in un sovrappeso importante e significativo, dovrete scegliere attività che non sovraccalcano l'articolazione a livello della gamba e a livello della colonna. Sì. Prima formuletta subito a disposizione degli ascoltatori. Seconda, volete iniziare un'attività che vi faccia del bene, tranquilla, fatta per conto vostro, camminare, nuotare, andare in bicicletta? Sì. Prendete la vostra frequenza cardiaca a riposo, quindi al risveglio, ipotizziamo 70, la incrementate del 50%, 70 diviso 2, 35, 70 più 35, 105. Mettiamo tutte queste formuline anche nella nostra Certamente, pagina. Certamente, però le ho dette proprio nel dettaglio. Bravo. Come piace ai nostri ascoltatori. Le ho capite anch'io, quindi il test è superato. 70 più 35, 105 e cominciate a impostare la vostra attività a questa frequenza cardiaca, cioè frequenza cardiaca a riposo incrementata del 50%. Sicuramente non vi farete del male, sicuramente aumenterà la vostra efficienza cardiovascolare e poi se più avanti parleremo di attività più o meno indicate per il dimagramento, per la salute o quant'altro, vedremo anche dove collocare l'attività a questa intensità. Ogni giorno 120 km in bici, nuotata, bravissimo dottor Confalonieri, mi scusi, mi sono dimenticata di gratificarla, che invece è importante. Esatto. Allora, ogni giorno 120 km in bici, allora, nuotata, allenamento coi pesi, seduta di box o arti marziali. Se ho dolori mi alleno intorno al dolore, come diceva il grande Schwarzenegger, Lucio da Milazzo. Professor Di Pietro, ha visto che anche lei è veramente un bel tipo questo Lucio. Assolutamente sì, se lui è contento così, allenato così, può anche usare a questo punto quella musica che abbiamo ascoltato prima, anche se per chi comincia, se io pensassi di dover cominciare adesso, penserei più a un adagio di Albinoni, a un mattino di Grieg, cioè una cosa un po' più tranquilla per poi arrivare a quello. Bisogna fare molta attenzione, ripeto, il corpo è una macchina molto bella e molto complessa. Non abusiamo di questa macchina. Se io ho una macchina che può fare 200 all'ora e vado in pista e continuo a stare sempre a 200 all'ora, probabilmente qualche problema meccanico arriva. Per cui bisogna sempre fare molta attenzione. L'importante, prima di ogni attività fisica, ma questo se fa già tutte queste attività l'ascoltatore lo saprà, è fare sempre stretching prima e preparare il muscolo e fare un po' di stretching anche dopo, perché il muscolo non va rovinato. A freddo, assolutamente a freddo si rovina. E naturalmente invitiamo i nostri ascoltatori a raccontarci di quel dolorino che insorge quando si allenano, certo, o subito dopo, perché anche il momento in cui si manifesta il dolore, ho imparato dai miei esperti, può fare la differenza, certo, e come passa, se esatto, passa da bravissimo, solo. Bravissimo, come evolve e come passa. Allora, abbiamo Antonello che ci chiama da Grosseto. Buongiorno Antonello. Buongiorno a voi. Ecco, la mia domanda è questa. Io intorno a 5-6 anni fa, avevo 48 anni, ho ricominciato a correre con un gruppo di persone, correvo intorno ai 20-25, poi ho smesso e ho fatto troppo e mi sono venute delle calcificazioni tendine al tendine di Achille, dopodiché ho smesso e ora faccio delle passeggiate col cane. Ecco, se volessi pensare di tornare a correre, che accorgimenti dovrei usare? Era questa la domanda. Allora, la affido alla nostra coppia. Chi parte per primo? Facciamo un inquadramento e poi... Innanzitutto direi che questa esperienza è indicativa, nel senso che iniziare così a freddo con un'attività solo perché la fanno gli amici espone ai rischi di cui si parlava. In questo caso l'effetto cronico si è manifestato in un'infiammazione tendinea che poi ha esitato in una calcificazione. Il primo consiglio che darei al nostro amico è: trovi un'alternativa alla corsa, perché o la bicicletta o il nuoto piuttosto che il cammino sicuramente sono preferibili a ricominciare a correre. Prima di ricominciare a correre c'è la necessità innanzitutto di intervenire su queste calcificazioni con la terapia più ad hoc, dalle onde d'urto a tutte le altre, poi valutare il perché si sono determinate in termini biomeccanici, quindi legato alla tipologia di corsa, alla tecnica di corsa, alle scarpe utilizzate, e poi riprendere ovviamente con gradualità. E c'è sempre la via di mezzo, cioè, nel senso che fare i 20-25 chilometri, certo, e la passeggiata col cane alla via di mezzo. Certo. La via di mezzo è quella più equa, come la si stabilisce. Non devo arrivare a avere dolore. Quando io comincio un'attività fisica, c'è una credenza popolare che dice: ho dolore perché è l'acido lattico. Sì. L'acido lattico non dà dolore, non è quello, perché ci sono delle micro lesioni che sto facendo nel muscolo o nel tendine. Se queste micro lesioni continuo a farle, continuo a lavorare su queste micro lesioni, si creano infiammazioni. Detto in modo molto spiccio, scusa Confalonieri se lo spiego in modo spiccio così, però ci capiamo, sono dei piccoli versamenti, chiamiamolo così, di siero, delle palline che si trovano. Quando la pallina si asciuga, scusate ancora la semplicità, però ci capiamo, lascia dei detriti che si chiamano salati di calcio o altro, che si accumulano un po' come le stalattiti, le stalagmiti. Ecco. A questo punto si creano queste calcificazioni. Ora, se io continuo su questa infiammazione a far depositare questi sassolini, chiamiamoli, sì, così, ottengo delle lesioni continue. Per cui, come diceva giustamente il dottor Confalonieri, vanno prima risolti questi e poi cominciare un'attività fisica che non porti mai il dolore. Questa è una regola molto importante. Sì, la chiarisco solo leggerissimamente: il dolore del giorno dopo legato alla microlesione è fisiologico se si esaurisce nell'arco delle 24 ore, al massimo delle 36 ore. Il muscolo subisce la microlesione, si rigenera e migliora in termini di efficienza. Se si prolunga fino a 2 giorni, certo, comporta tutte le conseguenze di cui ha parlato il professor Di Pietro. Allora, avete bisogno di qualche consiglio per capire quale attività fisica, attività sportiva fa bene per voi? Siete indecisi se andare a correre con l'amico, andare in palestra, iscrivervi ad un corso anche di ballo? Chiamateci perché i nostri esperti possono darvi delle indicazioni, naturalmente raccogliendo dei dati che voi sarete così gentili da raccontarci all'800 24 00 24 oppure scrivendoci al 349 238 6666. Sono pigra, ci scrive un'ascoltatrice, ho provato la Zumba perché mi piace la musica, ma il mio ginocchio operato due volte di menisco, poi di riallineamento rotuleo, mi fa un po' malino. Solo durante l'esercizio, che faccio? Mi iscrivo o meglio all'acqua gym? Ecco, questo è un caso abbastanza frequente, persone che magari hanno una certa propensione per vogliono andare a ballare, piuttosto ti piace la musica e quindi lo Zumba, ma sembra che il corpo dica no, non fa per me. In questi casi cosa fare? Dottor Confalonieri. Nel caso della nostra amica sicuramente riparta dall'acqua gym, tra l'altro c'è proprio i programmi di zumba acquatica, quindi sono perfetti, si diverte allo stesso modo e non sovraccarica il ginocchio. Magari in contemporanea fa un lavoro di stabilizzazione e di potenziamento che le consente di migliorare l'efficienza del ginocchio e poi potrà alternare l'attività in acqua con quella in palestra. Però da questo punto di vista l'alternativa di lavorare in acqua è sicuramente importantissima e interessantissima. Adesso noi andiamo a sentire se la borsa ha delle notizie interessanti anche per noi e poi ritorniamo subito dopo insieme, parliamo di come scegliere anche l'attività fisica per i nostri bambini, quali sono i criteri che ci devono guidare, chiederemo anche ad un nostro esperto di denari che cosa, se possiamo in qualche modo risparmiare anche un po' di denari, non assottigliare troppo il nostro portafoglio, che dire, io vi aspetto, anzi vi aspettiamo. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Cuore e Denari. Muoviti, muoviti! Allora sì, noi ci stiamo muovendo, tra l'altro muoversi aiuta anche a contrastare un po', no? A vincere quella crisi di astinenza che molti fumatori provano durante le prime due settimane. Sì, aiuta anche a combattere uno degli effetti collaterali dell'astensione che è l'aumento di peso, perché ovviamente noi possiamo compensare o mangiando di più o muovendoci di più, allora a questo punto è meglio compensare muovendoci di più. Se state quindi pensando di iscrivervi in palestra, di andare a correre, di fare delle belle camminate, a che ritmo tra l'altro? Beh, tutto dipende, va tutto bene, dicevamo fuori onda insieme al professor Di Pietro, bisogna capire in che condizioni siamo e come pratichiamo questa attività, certo, e con quali obiettivi. Allora, dottor Confalonieri, ci sono sport che allenano più il cuore, altri che lavorano più sui muscoli, sport che aiutano a bruciare più calorie. Facciamo una sorta di specchietto, così ci dà anche delle indicazioni e che ci permettono di capire se noi finiamo in palestra oppure andiamo a correre o ci iscriviamo a un corso di latinoamericane. Io faccio il terzo. Allora, cercando di essere molto concreti e molto sintetici, obiettivo incremento della massa muscolare e tonificazione. Evitiamo le attività in acqua perché servono molto poco, tendenzialmente andiamo in palestra perché solo la palestra ci consente di aumentare in modo significativo il tono e la massa muscolare. Poi in palestra l'istruttore ci dirà come lavorare, su quali distretti lavorare. Obiettivo: migliorare l'efficienza cardiovascolare, in parte accennavo prima. Il sistema migliore sono gli sport di durata eseguiti a bassa intensità, quindi cammino, ciclismo, corsa, canoa, canottaggio, qualsiasi cosa ci consenta di lavorare a lungo con una frequenza cardiaca bassa o tendenzialmente bassa. Vi ricordo la formula di prima: frequenza cardiaca a riposo incrementata del 50% come riferimento, così anche chi non c'era prima se la può segnare. E certo. Terzo, e forse ancora più interessante, voglio dimagrire. Da questo punto di vista le attività più efficaci sono le attività intervallate. Queste sono le nuove teorie, ormai però sono ampiamente codificate. Quindi scegliamo attività nelle quali si alternano 20-30 secondi di esercizio intenso con 20-30 secondi di recupero. Parlavo tempo fa di usare l'hip hop come base musicale per dimagrire. È perfetta. Parte rappata la facciamo ad alta intensità, parte melodica recuperiamo. Quindi tutte quelle attività di palestra, di fitness o quant'altro che ci consentono di alternare ci fanno dimagrire più rapidamente. Per qualsiasi ulteriore richiesta noi siamo qua con Christian che ci chiama da Udine e poi subito dopo Angelo da Catanzaro. Christian, buongiorno. Sì, buongiorno, salve. Io volevo portare la mia piccola testimonianza e chiedere anche conferma ai due giovani professori. Uno, io ho sempre fatto sport da quando sono ragazzino, ho fatto l'arbitro di calcio a livello semiprofessionistico, quindi insomma... Insomma è uno che sa, come si dice, che ha imparato ad allenarsi perché quando avevo 17-18 anni non sapevo nulla e piano piano imparando. Certo. Poi una volta a settimana giocavo a calcetto con i miei amici. Però giunto ahimè alla soglia dei 40 anni ho deciso di smettere con questa attività perché ritengo che come attività mi creava non solo dei microtraumi ma costantemente sostanzialmente dolori, perché poi sostanzialmente quando si gioca a calcetto ci sta poca cura, non ci si scalda. Insomma, ha abbandonato gli amici del calcetto, tra le righe ci dice anche questo. Sarà esatto, e ne ho trovato giovamento perché adesso faccio insomma corsa e... ciclismo, insomma, preferisco fare così perché diversificare, quindi allora fa bene Christian, non so, i suoi compagni non so se saranno contenti di aver perso Christian in squadra, forse sì, forse no, non andiamo ad indagare, ma Christian ha diversificato un po' l'allenamento e ha fatto bene, l'importante è non aver perso un buon arbitro, però io penso che ciò che conta è il movimento, poi magari siccome la motivazione nella vita anche nello sport è fondamentale, si dimagrisce se si ha la motivazione eccetera eccetera eccetera, se a lui piaceva talmente tanto il calcetto per cui ha perso la motivazione, stia più tranquillo nel giocare a calcetto, magari trovi una squadra meno aggressiva dove viene richiesto meno aggressione, ma il diversificare sicuramente in una persona che fondamentalmente non ha problemi è la cosa migliore. Allora andiamo ad Angelo, buongiorno, ci chiama da Catanzaro. Salve. Angelo, e allora, a calcetto lei non gioca? No, no, non ho mai giocato. Gatti in casa? Gatti in casa? Neanche? Cosa? Gatti in casa che circolano per casa di cui può mandarci? No, vabbè, dai. Allora Angelo, non importa, può fare la domanda ugualmente, vada. No, allora io parto da un fortissimo mal di schiena di circa 15-16 anni fa, che però è passato con con il massaggio, poi ho avuto sempre un problema col peso, da circa dal 2011 ad oggi sono dimagrito di quasi 40 kg attraverso uno sport, ho iniziato a praticare sport a combattimento, gli sport a combattimento hanno obbligato una forte riduzione del peso e specialmente da quando faccio box è totalmente scomparso il mal di schiena. Ecco, questa è la ricetta di Angelo che ringraziamo per averla condivisa con noi. Adesso vediamo se i nostri esperti mettono il bollino. Allora, dottor Confalonieri, ha perso 40 kg. Ecco, direi sport che il mal di schiena è scomparso box. Perché ha perso 40 kg. Bravo Confalonieri. Non perché ha fatto gli sport da combattimento. Lo sport da combattimento è stato fondamentale, riagganciandomi a quanto diceva prima Di Pietro, per dargli la motivazione di perdere 40 kg. Cioè noi il peso non lo perdiamo facendo sport, noi il peso lo perdiamo perché facendo sport cominciamo a occuparci del nostro corpo. Cominciando a occuparci del nostro corpo stiamo più attenti all'alimentazione e perdiamo il peso. Lui non poteva fare sport di combattimento con uno zaino di 40 kg sulle spalle. Li ha persi ed è scomparso il mal di schiena. Attenzione adesso però, perché comunque è una schiena che va allenata a gestire lo stress dello sport da combattimento. Non vorrei che il nostro amico adesso si esaltasse di stare bene, di riuscire a farli, chiedesse troppo alla sua schiena e poi insorgessero problemi diversi. Professor Di Pietro, prima di passare ai nostri bambini, un consiglio, due dritte per chi ha più volte durante l'anno problemi di schiena, sente il famoso, no? Il famoso colpo della schiena, poi magari va via, si allena un po', poi torna a far male. Ecco, che la schiena si fa sentire, no, a flash. Allora, brevissimamente, il dolore dividiamolo in orizzontale e verticale. Sì. Se io sono in piedi e il dolore alla schiena in zona lombare è una barra sulla schiena, allora in quel caso chiedetevi cosa state mangiando, quanto è gonfia la pancia, come andate in bagno, perché il problema probabilmente è un gonfiore intestinale che spinge sulla colonna e ci porta a una postura non corretta. Se il dolore invece è verticale, cioè dalla schiena parte, va verso il gluteo, verso la coscia, andate ancora prima dal vostro medico curante a farvi vedere, che magari è il caso di accertare qualcosa in più. Ecco, questa, Jason, è una lettura che può aiutarci a fare prevenzione, a capire i segnali anche del nostro certo. corpo e non trascurarli, perché no, goccia dopo goccia poi arrivano poi i conti molto salati. Vogliamo parlare anche di bambini? Perché continueremo naturalmente a rispondere alle domande all'800 24 00 24, ai lamenti dello sportivo oppure lo sportivo indeciso, ma pensiamo anche a che cosa far fare al ragazzino, perché la scelta è più complessa di quanto si possa pensare. Si deve tenere conto di tante variabili: la motivazione, la predisposizione, la struttura fisica del bambino, senza trascurare che se la scuola non organizza anche qualche attività o il centro sportivo è lontano, si deve anche organizzare una tabella di turno, di presa, accompagnamenti, che insomma sono sempre un po' difficili da gestire. E poi ci sono anche i costi dei corsi, che non sono sempre a buon mercato. Allora, dottor Confalonieri, lei è tecnico. Quali sono gli elementi che possono aiutare un genitore a fare una buona scelta? Innanzitutto una scelta di fondo: se potete, fino a 10 anni, alternate almeno 2 attività, perché più esperienze motorie fanno i bambini meglio è. Quindi o 2 sport o sport più giochi liberi. A partire da che età? Fino a 10 anni, a partire dai 5-6 anni. Sì. Prima si fa fondamentalmente del gioco e dell'attività psicomotoria. Così diamo anche un po' di quadramento. Esatto, quindi la fascia d'età. Dai 10 anni in poi è più corretto orientare il bambino verso un singolo sport. Rispetto alla scelta, secondo me il primo criterio è fare uno sport che aumenti l'autostima del bambino. Come può aumentare l'autostima? Attraverso il fatto che con lo sport rafforza le amicizie, quindi si sente accettato e parte di un gruppo, o attraverso il fatto che fa uno sport nel quale riesce, in termini delle sue abilità e della sua predisposizione, abbastanza bene da sentirsi competente. Quindi questo è il secondo criterio di scelta: aumento dell'autostima attraverso il rafforzamento dell'amicizia, quindi il gruppo, e attraverso il rafforzamento della consapevolezza delle sue competenze, quindi fare qualcosa che riesce a fare bene. Mio figlio ha le scapole alate, ci scrive un ascoltatore. Quale sport è consigliato? Non ci scrive l'età del bambino, comunque ha le scapole un po', no? che si vedono, non ha le ali, ma è una... Lo sport, l'attività fisica, come dicevo prima, non è un farmaco, cioè non è una soluzione. È una delle soluzioni. Cioè, in pratica, devo capire perché ha questo. Io non posso pensare che può andare a posto soltanto facendo due volte alla settimana nuoto. Mentre invece va capito perché. C'è forse un problema di masticazione, c'è forse un problema di appoggio plantare non corretto dei piedi, e quindi questo è molto importante. Quindi il consiglio che dei nostri esperti è sottoporre il bambino ad una visita da uno specialista, che può prendere in considerazione tutta una serie di parametri. Sarà il pediatra stesso a dire da chi andare a farsi vedere, in modo da poter scegliere lo sport più corretto. Quindi questo vuol dire che quando le mamme dicevano lo iscrivo a pallacanestro così si alza, non funzionava. Infatti io sono rimasta piccola e non ho neanche imparato a giocare a pallacanestro. Andiamo a sentire le informazioni sul traffico e poi torniamo subito dopo insieme. Cuore e denari. Allora, sto spegnendo un po' questo chiacchiericcio nello studio perché ho 2 ospiti per aiutarci a scegliere, no, dovevo dire un po' così, no? Dottor Confalonieri, il professor Ernesto Di Pietro, un medico sportivo, un osteopata, per guidarci nelle scelte dell'attività sportiva per noi e per i nostri bambini. Però a proposito di attività sportiva, e perché questo è un po' il momento, il professor Di Pietro diceva che settembre è il lunedì dell'anno. Ecco, noi non possiamo, siamo a cuore di denari, dimenticare anche l'impatto sui denari, e questo è un periodo particolarmente strategico. Quindi nel fare le nostre valutazioni possiamo tenere a mente anche gli aspetti fiscali e la possibilità, perché no, di detrarre alcune spese. Allora ci facciamo aiutare dal nostro esperto Luca De Stefani, commercialista ed esperto in materia fiscale per Il Sole 24 Ore. Buongiorno dottor De Stefani. Buongiorno a tutti. Allora, adesso entriamo nel campo dei denari. È possibile detrarre le spese sostenute per attività sportive? Questo vale solo per i minorenni o... Ecco. Allora, abbiamo o possiamo allargarci un po' anche noi? Certo. Allora, abbiamo una detrazione importante che è quella per i ragazzi dai 5 ai 18 anni, sì? Ma anche per chi ha superato questa età è possibile detrarre almeno la visita specialistica effettuata per ottenere il certificato per l'idoneità sportiva. Sappiamo che alcune palestre chiedono questo certificato, che è obbligatorio in alcuni casi per l'attività agonistica e non agonistica, è obbligatorio, mentre per l'attività ludico-motoria non è obbligatorio. In ogni caso, se facciamo questa visita specialistica per ottenere il certificato appunto annuale, questa spesa è detraibile al 19% dalla propria dichiarazione di redditi. Quindi questa è una buona notizia per chi magari se la fosse fatta sfuggire. Ma dottore, bisogna compilare con anticipo le dichiarazioni per poter fare una richiesta di questo tipo? E così ce lo possiamo magari già appuntare nel calendario? Ecco, il principio che si utilizza è il principio di cassa, cioè quando c'è il pagamento si può detrarre. Se io faccio il pagamento quest'anno, nel 2016, devo ricordarmi il prossimo anno di indicare questa spesa per la visita medica oppure per appunto l'iscrizione, l'abbonamento annuale per i figli o per i familiari a carico dei 5-18 anni nella prossima dichiarazione di redditi. Ricordiamo che queste spese non sono ancora indicate in automatico nel 730 precompilato o nel modello unico precompilato. Quindi devo obbligatoriamente ricordarmi il prossimo anno ad aprile-maggio, periodo delle dichiarazioni, di modificare la dichiarazione che trovo precompilata nel sito dell'Agenzia delle Entrate oppure tramite un CAF e indicare queste spese sostenute. Ricordiamo allora per i giovani, dai 5 ai 18 anni è possibile detrarre al 19% l'iscrizione annuale e l'abbonamento appunto annuale per le palestre, piscine e associazioni sportive. Dottor De Stefani, ma ci sono dei tetti massimi? Sì, sì. Per quanto riguarda le spese mediche abbiamo il 19% di importo massimo detraibile, però la spesa deve comunque... complessive, le spese sanitarie in generale devono comunque superare i 129 euro. Per quanto riguarda invece le spese per gli abbonamenti annuali o l'abbonamento appunto per i giovani, per i ragazzi, la spesa massima è di 210 euro, quindi per il 19% abbiamo il 40% di bonus fiscale. Ecco, ricordiamo che questo limite massimo compete per tutti i singoli familiari a carico, quindi se ho più familiari a carico, più figli, ma ricordiamo che la detrazione può essere fatta anche dal nonno nei confronti del nipote a patto che questo sia a carico, quindi la norma difatti non parla di figli e basta, ma parla appunto di familiari in generale, l'importante è che siano a carico, quindi abbiamo un reddito inferiore ad un certo livello. Ma se entrambi i genitori fanno la dichiarazione, come ci si comporta? Ricordiamo anche come va indicata magari questa spesa per portarla in detrazione? Sì, va indicata nei righi del 730 o del modello unico, il rigo E8 da rigo E12 o comunque per quanto riguarda il modello unico nel quadro relativo agli oneri, rigo RP8 e RP14. L'importante è farsi fare una ricevuta fiscale o da avere la quietanza da parte della palestra o la fattura. Questi documenti, ricordiamo, devono indicare appunto l'intestazione della palestra, lo sportivo, il nome e cognome del figlio, ragazzo che fa lo sport, l'importo, lo sport praticato e anche il codice fiscale di chi ha pagato, di chi ha effettuato il pagamento. Quindi può essere indicato il codice fiscale solo di uno dei due coniugi oppure di entrambi i coniugi. In alternativa a questi documenti posso fare il pagamento tramite bonifico bancario o bollettino postale e in questo caso a consuntivo invece posso scegliere di indicare, se ad esempio il conto corrente era quintestato, indicare nella ricevuta o nel bonifico che porti in detrazione il nome del contribuente che vuole portare in detrazione questa spesa. Posso indicare solo uno di due coniugi oppure entrambi. Grazie dottor De Stefani per essere stato con noi, per la sua chiarezza. Abbiamo preso nota, ma naturalmente i nostri ascoltatori sanno che possono inoltrare le loro richieste a cuoredenari@radio24.it. Buona giornata, buon weekend, il dottor De Stefani. Grazie, arrivederci a tutti. Abbiamo Luciano da Roma che, per chiudere in bellezza, in un minuto. Luciano, buongiorno. Doverosi complimenti per la trasmissione. Buongiorno a voi. Grazie. Io ho una bambina di 9 anni. E l'abbiamo scoperto 5 anni fa che era celiaca, quindi associato a uno sport, il nuoto, consigliato dal nostro pediatra, e una buona alimentazione, abbiamo ottenuto dei risultati a dir poco eccellenti, quindi tutto un fisico, il deltoide, il bicipite, insomma, sì. Veramente la bambina sta venendo su. Domanda: la bambina da quest'anno non vuole più andare a nuoto? Le complicità, le amicizie, guardi, cambiano mode. Idea continuamente, si prepari, vuole fare i pop, Vuole fare i pop. Glielo facciamo fare, dottor Confalonieri, a certamente questa sì. Bella ragazzina è arrivata a 10 anni col nuoto, l'ha formata, adesso fa qualcosa di divertente, di ancora più adatto alla sua età, anche in termini di incremento delle capacità coordinative, quindi dal nuoto all'hip hop con gioia. Professor Di Pietro, grazie, torniamo sicuramente, grazie al dottor Confalonieri, io vi aspetto lunedì insieme a Deborah, intanto buon weekend da Nicoletta.